Capitolo 32. 5 ottobre. Esther Hargrave sta crescendo ed è una bella ragazza. Sua madre la porta spesso a trovarci quando la mattina gli uomini sono fuori e rimane con me, la sorella e i bambini. Quando andiamo in visita al Grove, mi intrattengo sempre con lei più che con chiunque. Sono molto affezionata alla mia giovane amica e anche lei a me. Anche se mi domando cosa trovi in me, dato che non sono certo più la ragazza allegra e spensierata che ero prima. Del resto, però, non ha nessun altro a parte la madre e la governante, che è la persona più artefatta e convenzionale che la madre potesse trovare per raddrizzare le inclinazioni naturali della figlia, e di tanto in tanto la sorella, così mite. Mi chiedo cosa abbia in serbo per lei il destino. E se lo chiede anche lei, sebbene le sue visioni del futuro siano piene di vivaci speranze, proprio come erano le mie. Quando penso che potrà realizzare, come è successo a me, quanto siano vane e illusorie, invece, mi vengono i brividi. Ho come l'impressione che la sua delusione mi possa far soffrire più ancora della mia, come se in qualche modo io stessa fossi destinata a questa sorte, mentre lei è ancora così fresca, gioiosa, così serena e aperta, spontanea e fiduciosa. Sarebbe una vera crudeltà se finisse per provare quello che io provo adesso o sapere quel che so. Anche la sorella è preoccupata per lei. Ieri mattina, in una delle giornate più belle e luminose di ottobre, Millicent ed io eravamo nel parco con i nostri figli mentre Annabella si dedicava alla lettura dell'ultimo romanzo sdraiata sul divano. Dopo aver giocato per un po' con i bambini, mostrandoci altrettanto vivaci ed eccitate, ci siamo sdraiate sull'erba all'ombra del grande faggio per ricomporci i capelli spettinati dal gioco e dal vento, mentre i piccoli continuavano a giocare lungo il viale, con Arthur che sosteneva l'andatura più incerta di Helen, mostrandole le molte bellezze che incontravano lungo la stradina e parlandole, articolando ogni parola in modo ancora un po' confuso, che a lei andava comunque bene lo stesso, come le sarebbe andata bene qualsiasi lingua in realtà. Dopo aver riso davanti a questa scena, ci siamo messe a parlare del futuro dei nostri figli. E ci siamo fatte entrambe più serie e silenziose. Sulla via del ritorno eravamo ancora pensierose e a Millicent, forse per associazione di idee, è venuta in mente la sorella. Incontrate spesso Esther, non è vero? Non molto spesso. Di sicuro più spesso di me, comunque. E lei vi è affezionata e vi stima, questo lo so. Tiene in grande considerazione il vostro parere su ogni cosa e dice che siete più saggia della mamma. Oh, solo perché è una ragazza testarda, via. E spesso il mio parere è più vicino al suo di quanto non lo sia quello di sua madre. Ma cosa volete dirmi, Millicent? Ecco, dato che avete questo ascendente su di lei, vorrei che la convinceste a non sposarsi mai e a non lasciarsi convincere a farlo per nessuna ragione, né per interesse, né per il titolo, né per qualsiasi altro simile motivo, ma solo per affetto e sulla base di una stima ben fondata. Ah, non serve, cara, le ho risposto. Abbiamo già affrontato questo argomento e posso assicurarvi che ha già un'idea di amore e di matrimonio sufficientemente romantica. Il romanticismo non basta. Vorrei che si facesse un'idea realistica e meno ideale della questione. Sono d'accordo. Tuttavia, spesso quel che definiamo romantico è più vicino alla realtà di quanto si pensi. Il fatto che le concezioni che maturiamo in gioventù siano poi guastate dalle nostre visioni successive non significa che siano false. Bene, allora se siete convinta che abbia concezioni tali da poterle ritenere giuste, incoraggiatela a rafforzarle, ve ne prego. Anche io ero romantica un tempo, e sebbene non possa dire di non essere felice del mio destino, perché in fondo lo sono, però. Capisco quel che dite, ho commentato. Siete contenta per voi, ma vorreste evitare che vostra sorella passi quel che state passando. O anche peggio, potrebbe capitarle di passare per qualcosa di peggio, perché in fondo io sono soddisfatta, Helen, anche se capisco che possiate ricavare un'impressione diversa. Sono sincera se dico che non cambierei mio marito con nessun altro, neppure se fosse facile come raccogliere una foglia. E io vi credo. Non lo cambiereste, ma forse vorreste cambiare alcune sue caratteristiche con quelle di uomini migliori di lui? Sì. E allo stesso modo cambierei alcune mie caratteristiche con quelle di donne migliori di me. Nessuno di noi due è perfetto e desidero che lui migliori con la stessa forza con cui desidero migliorare io per prima. E succederà, Non credete, Helen? In fondo ha solo 26 anni. Possibile, ho risposto. Sicuro, sicuro, ha replicato. Sono sfiduciata, Millicent, e me ne scuso. Non vorrei scoraggiare le vostre attese, ma le mie sono state deluse così tanto che oramai sono diventata pessimista e cupa come un'ottantenne. Però continuate a sperare, anche per il signor Huntington, vostro marito. Lo ammetto, persino per lui, e a quanto pare la vita e la speranza finiscono nello stesso momento. È davvero tanto peggio del vostro Hattersley? Se proprio devo essere sincera, tra i due non c'è paragone. Però non vi offendete, Helen. Come sapete, dico sempre quello che penso e voi potete fare lo stesso con me. Oh, non mi offendo, cara. Credo anzi che, dovendoli mettere a confronto, ne uscirebbe quasi certamente meglio Hattersley. Avendo capito quanto mi fosse costata quella missione, Millicent mi ha manifestato la sua emozione in modo infantile, dandomi un bacio sulla guancia. Poi si è girata a prendere in braccio la bambina e ha nascosto il viso nel suo abitino senza dire una parola. Che strano. Riusciamo più spesso a piangere per le disgrazie l'una dell'altra che per le nostre. E il suo cuore, già colmo delle sue pene, è traboccato al pensiero delle mie e io stessa ho pianto commossa dal suo affetto, malgrado fossero diverse settimane che non versavo una lacrima per me stessa. La settimana scorsa era un giorno di pioggia. La comitiva era radunata nella sala del biliardo a passare il tempo, mentre Millicent ed io eravamo con i piccoli Arthur e Helen in biblioteca. Tra i libri, i bambini e la reciproca compagnia ci aspettavamo di trascorrere una bella mattinata. Dopo un paio d'ore che ci trovavamo lì è entrato il signor Hattersley, attirato dalla voce di sua figlia, che doveva aver sentito passando per l'ingresso, poiché le è molto affezionato, come del resto anche lei a lui. Sapeva di stalla perché era lì che si era intrattenuto in compagnia dei suoi amati cavalli, da dopo la colazione in poi. Alla mia piccola omonima, però, non importava, e appena vista la grande figura di suo padre sulla porta, gli è corsa incontro con un gridolino, lasciando la madre, e l'ha raggiunto tenendosi in equilibrio con le braccia in fuori, per poi stringergli un ginocchio ridendo e guardandolo dal basso verso l'altro. Mentre le sorrideva, rivolgendo lo sguardo sui suoi tratti delicati, pieni di gioia innocente, sui suoi capelli soffici e biondi, sciolti sul piccolo collo e sulle piccole spalle bianche come l'avorio, non si sentiva immeritevole di un tale tesoro? Ho paura di no. Ha preso in braccio la figlia e hanno giocato impetuosamente per un po', tanto che era difficile stabilire se fosse il padre o la figlia a ridere e strillare più forte. Dopo poco, inevitabilmente, il caotico gioco è finito perché la piccola si è fatta male e ha cominciato a piangere. Il suo irruento compagno di giochi l'ha subito riportata alla madre, mettendogliela in braccio perché rimediasse. Felice di ritrovare la sua consolatrice, quanto poco prima lo era stata di separarsene, la piccola si era annicchiata contro il petto di Millicent e ha smesso di piangere e dopo pochissimo si è addormentata. Hattersley, nel frattempo, ha raggiunto il camino e si è messo con la sua grande sagoma lì davanti, con le mani sui fianchi, guardandosi attorno come se tutta la casa, con ciò che conteneva, fosse di sua assoluta proprietà. «Che tempo, dannazione!» ha esclamato. «Oggi niente caccia, direi». Ci ha cantato ad alta voce qualche strofa di una canzonaccia che ha terminato fischiettando. Comunque, signora Huntington, vostro marito ha una gran bella scuderia. Non è grande, ma ha di tutto rispetto. Ci ho passato un po' di tempo stamattina e ho visto Black Bess e Grey Tom con il giovane Nimrod. Davvero gli animali più belli in cui mi si è imbattuto negli ultimi tempi. Dopo ha spiegato per filo e per segno tutte le loro qualità e tutto quello che aveva in mente di fare nel campo dell'equitazione quando suo padre fosse uscito di scena. Nonché gli auguri di tirare le cuoia, ha detto. «Vorrei ben vedere, signor Hattersley», ho replicato io. «No, no, era solo un modo di dire, ma prima o poi dovrà succedere, e voglio vederne l'aspetto positivo, e prepararmi con il giusto spirito. E direi che sono sulla buona strada, che ne dite, signora Huntington?» «E voi che ci fate qui? Dov'è Lady Lowbrow?» «Nella sala del biliardo». «Una creatura favolosa», ha detto guardando la moglie, che nel frattempo impallidiva, restando sempre più senza parole. Fattezze nobili, splendidi occhi neri, Una notevole ironia e una bella lingua quando la tira fuori. La trovo adorabile. Ma non temere, Millicent, non la sposerei neppure se avesse in dote un regno intero. Mi sta bene la moglie che ho. E dai, non guardarmi con quel broncio. Cosa c'è, non mi credi? Sì, ti credo, gli ha risposto lei in tono dimesso e offeso, girandosi dall'altra parte ad accarezzare i capelli della figlia, che nel frattempo aveva disteso sul divano accanto a sé. E perché sei arrabbiata allora? Vieni, Millie, dimmi cosa ho detto che non ti è piaciuto. Allora lei gli si è avvicinata e gli ha posato una mano sul braccio. E il significato di quello che hai detto, Ralph, è che ammiri in Annabella le qualità che io non possiedo e che ciò nonostante non la vorresti come moglie al mio posto. Vuol dire che non ritieni necessario amare tua moglie, ma ti accontenti che badi alla tua casa e alla tua bambina. Non sono arrabbiata, sai, ma solo dispiaciuta. Ha detto infine con voce tremante, ritirando la mano dal braccio e abbassando lo sguardo sul tappeto. Poiché il fatto è che se tu non mi ami, non mi ami e non c'è niente che io possa fare. D'accordo, ma io ho forse detto di non amarti? No, ma hai detto che adori Annabella. Ah, l'adorazione è diversa dall'amore. Io adoro Annabella, ma non la amo. Amo te invece, ma non ti adoro. Per dimostrarglielo, le ha preso un ricciolo e l'ha tirato forte. Dici davvero, Ralph? Gli ha risposto lei, sorridendo tra le lacrime, raggiante, e posandogli una mano sul braccio per fargli capire che stava tirandole i capelli un po' troppo. Ma certo, però a volte mi dai noia. Ti do noia? Ha esclamato lei, sorpresa. Sì, è per via della tua bontà. Se un bambino non ha mangiato che uvette e caramelle tutto il giorno, la sera gradisce un succo di arancio amaro. Giusto per cambiare, non hai mai fatto caso, Millicent, alla sabbia bagnata sulla spiaggia? Com'è liscia e morbida e comoda sotto i nostri passi, eppure dopo un po' camminarci sopra, affondando continuamente con il piede, diventa faticoso e desideriamo spostarci su un terreno più solido, di roccia magari, che non ceda di un solo millimetro quando ci stai in piedi o quando ci cammini sopra e tutto diventa più facile. Ho capito cosa intendi, Ralph. Gli ha risposto lei, giocando con la catena dell'orologio e seguendo con il piede il disegno sul tappeto. Ma credevo che essere accontentato ti piacesse, e a questo punto è tardi per cambiare. Sì che mi piace, le ha risposto lui con un'altra tirata di capelli. Però un uomo deve sempre avere qualcosa da dire, no? Quindi, se non può accusare sua moglie di essere testarda e nervosa, la deve biasimare per essere troppo indulgente. Non vedo perché dovresti biasimarmi se non ne senti il bisogno. Per coprire le mie colpe, non ti pare? Non crederai che voglia portarne il peso tutto solo sulle mie spalle, quando accanto qualcuno disponibile e senza altri pesi da portare? Quel qualcuno non esiste da nessuna parte, gli ha risposto lei, con uno sguardo sinceramente devoto, prima di allontanarsi con passo incerto verso la porta. E ora cosa c'è? Dove vai? A sistemarmi i capelli, che me li hai tutti spettinati, gli ha risposto sorridente. E va bene, vai. Poi, quando se n'è andata, mi ha detto: un'ottima persona, davvero, un po' troppo fragile, quasi ti si rompe in mano. Lo so, a volte la tratto male quando non la sopporto e non posso proprio farne a meno. Lei non si lamenta mai, forse non le dispiace. Su questo, signor Hattersley, posso informarla io stessa. Le dispiace come invece? E ci sono diverse altre cose che le dispiacciono, delle quali non vi dirà mai nulla. Come fate a saperlo voi? Se n'è forse lamentata? Ha chiesto con una scintilla di rabbia negli occhi pronta ad accendersi se gli avessi risposto sì. No, gli ho detto allora, ma conosco Millicent da più tempo di voi e ne ho studiato il carattere, più di quanto abbiate fatto voi stesso. Posso dirvi, signor Hattersley, che Millicent vi ama più di quanto meritiate e che potreste davvero renderla felice, mentre non passa giorno senza che le facciate un torto o le diate un dispiacere che potevate risparmiarle. Oh, non è certo colpa mia, ha risposto lui alzando gli occhi al soffitto e mettendosi le mani in tasca. Se qualcosa nel modo in cui mi comporto non le va a genio, dovrebbe dirmelo. Ma non è esattamente il tipo di moglie che volevate? Non avevate detto al signor Huntington di volere una donna disposta ad accettare ogni cosa senza lamentarsi e senza darvi addosso? È vero, però non è giusto ottenere sempre quel che vogliamo, perché si finisce per esserne viziati, non vi pare? Come posso trattenermi quando vedo che per lei non fa differenza se mi comporto da buon cristiano o da mascalzone, in quale sarei per natura? E come posso esimermi dal provocarla davanti alla sua riservatezza e alla sua umiltà? o quando si mette a cuccia ai miei piedi come un bravo cagnolino, senza mai emettere neppure un guaito per farmi capire che ho passato il segno. Si può capire, certo, ma solo se la vostra indole è quella del tiranno. Un'indole più buona, infatti, non gode nel soffocare il più debole, ma nel proteggerlo e valorizzarlo. Ma io non la soffoco, solo che proteggere e valorizzare sempre può essere noioso. Inoltre, come faccio a capire che la soffoco se ella muore e non dà alcun segno? Certe volte mi pare che sia persino insensibile, quindi persevero finché non piange, per avere almeno una soddisfazione. Dunque, soffocarla vi piace? No, davvero. Solo se sono di cattivo umore, oppure se mi sento particolarmente buono e la avvilisco per poterla consolare o mi pare troppo giù e voglio provocarla un po'. Ci sono volte in cui piange senza motivo e non mi vuole dire perché. In quel caso, lo ammetto, mi innervosisco tantissimo, in particolar modo se in quel momento non sono lucido. Senza dubbio le due cose accadono spesso nello stesso momento, ho detto. In futuro, comunque, signor Hattersley, se la vedrete giù o che piange senza motivo, come dite, sappiate che siete voi l'unico da biasimare e che sicuramente avrete fatto qualcosa di sbagliato o che ella soffre a causa del vostro comportamento. Non ci credo, e se così fosse, dovrebbe dirmelo allora. Che modo è di rattristarsi e avvilirsi senza una parola? Non è leale? È così che pensa di correggere la mia condotta? È possibile che Millicent vi ritenga più saggio di quanto non siate, e creda che prima o poi sarete voi a rendervi conto dei vostri errori e a porvi rimedio a partire dai vostri personali ragionamenti. Oh, risparmiatevi il sarcasmo, signora Huntington. So bene di non avere sempre una condotta irreprensibile, ma penso anche che in fondo non è poi così importante, poiché danneggio solo me stesso. Invece è molto importante. L'ho interrotto. Per voi stesso, come avrete modo di scoprire da solo, e per tutto ciò che avete attorno, e in particolare per vostra moglie. È davvero incredibile che vi siate convinto di far del male solo a voi stesso, specie nel caso dei comportamenti cui avete accennato, e non anche ad altre centinaia e migliaia di persone in modo più o meno grave, e non solo per il male che fate, ma anche per il bene che non fate. Come stavo dicendo, o come avrei voluto dire se non mi aveste interrotto, credo che sarebbe meglio avere accanto una moglie che sappia dirmi sempre quando sbaglio e mi desse modo di riconoscere il bene e il male, manifestandomi chiaramente la sua approvazione per l'uno o disapprovazione per l'altro. In mancanza di motivazioni più alte che non l'approvazione della vostra compagna mortale, non arrivereste comunque lontano. Eppure, se la mia compagna non fosse sempre tanto mite e indulgente, ma mi mettesse ogni tanto all'angolo, dicendomi sempre quel che pensa, come state facendo voi adesso, ad esempio, se foste voi al posto di Millicent e avessi la stessa condotta che ho con lei quando sono a Londra, voi mi rendereste la vita un inferno, ne sono sicuro. Oh, siete in errore. Non sono certo una strega. Meglio così. Io non amo essere contraddetto. E mi piace la libertà, come a tutti, ma quando è troppa, credo, non è un bene per nessuno. Non vi contraddirei mai senza una valida ragione e comunque di certo farei in modo di rendervi chiaro come giudico la vostra condotta. E se mi sentissi da voi soffocata nel corpo, nella testa o nel patrimonio, di sicuro non lascerei che pensaste che a me non dispiace. Oh, non ne dubito, cara signora, e sono convinto che se mia moglie facesse lo stesso sarebbe un bene per entrambi. Glielo dirò. Ma no, lasciate perdere. In fondo ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi i casi, e ora che ci penso, quel cagnaccio di Huntington, vostro marito, si lamenta spesso che voi non siate più come Millicent. E nonostante questo non siete riusciti a redimerlo. È 10 volte peggio di me. Di sicuro vi teme, questo sì, e in vostra presenza dà sempre il meglio di sé. Ma mi chiedo come sia allora quando dà il peggio. Non ho potuto fare a meno di dire. Sinceramente. È davvero pessimo, non è vero, Hargrave? Ha domandato al gentiluomo che nel frattempo era entrato senza che me ne accorgessi, dato che ero vicino al camino e di spalle alla porta. Non credete anche voi che Huntington sia il libertino più trasgressivo che si sia mai? Non crederete che sua moglie vi permetta di offenderlo impunemente? Ha detto lui avanzando nella stanza. Ma certo ringrazio il cielo di non essere come lui. Non sarebbe meglio che vi limitaste a guardarvi per quel che siete, invece, chiedendo pietà per i peccati vostri? Oh, siete molto severa, ha risposto, raddrizzando la schiena in un moto di orgoglio per quanto ferito. Hattersley si è messo a ridere e gli ha dato una pacca sulla spalla. Hargrave si è scansato e si è allontanato dall'altra parte del tappeto. Ditemi voi se non è una disdetta, signora, ha esordito il cognato. Ho colpito Hargrave mentre ero ubriaco la seconda sera che eravamo qui, e da quella volta lui mi tratta con freddezza, nonostante mi sia scusato subito il mattino dopo. La maniera con cui l'ha fatto e la precisione con cui ricordavi quanto era accaduto dimostrano che non eri poi così sbronzo da non essere padrone di quel che facevi, e quindi ne sei pienamente responsabile. Ti sei intromesso tra me e mia moglie, gli ha risposto a quel punto Hattersley. Un uomo può ritenerla una provocazione sufficiente. Ti stai giustificando, quindi, gli ha detto l'avversario con uno sguardo severo. No, intendo solo dire che non mi sarei comportato così se non fossi stato in quelle condizioni. E se proprio non mi vuoi perdonare, malgrado le cose belle che ti ho detto, allora vai all'inferno. Sarebbe meglio che badassi al modo in cui ti esprimi, almeno davanti a una signora, gli ha detto Hargrave, camuffando la sua rabbia dietro la disapprovazione. Oh, ma che ho detto di male? Ha esclamato Hattersley. Non è vero che andrà all'inferno, signora Huntington, se non perdona suo fratello? Dovreste concedergli il perdono, signor Hargrave. In fondo ve lo sta chiedendo. Se lo dite voi, allora lo farò, ha risposto lui con un sorriso sincero, allungando la mano verso il cognato. E così si sono riconciliati in modo apparentemente civile. L'offesa che ho subito, ha spiegato Hargrave, era grave per metà proprio a causa del fatto che se fosse avvenuta in vostra presenza. Quindi ora voi mi chiedete di perdonarlo, io lo farò e dimenticherò tutto. A questo punto non posso che manifestare la mia riconoscenza togliendo il disturbo, ha detto Hattersley con uno strano sorriso prima di lasciare la stanza. La cosa mi ha messa subito in allarme. Il signor Hargrave si è girato verso di me e ha annunciato in tono serio: Signora Huntington, ho molto atteso che arrivasse questo momento, pur temendolo. Vi prego, state tranquilla, ha aggiunto vedendo che arrossivo di rabbia. Non dirò niente che possa offendervi, né vi turberò parlandovi dei miei sentimenti o delle vostre virtù, però devo dirvi qualcosa perché voi dovete saperlo per quanto mi addolori. In questo caso potete fare a meno di dirmelo. Si tratta di una cosa molto importante. E allora la verrò a sapere comunque. Le cattive notizie viaggiano in fretta e a quanto pare voi stesso la considerate tale. Vado ad accompagnare i bambini in camera. Non potreste invece suonare la campanella e chiedere che qualcuno li riaccompagni al vostro posto? No, sento fisicamente il bisogno di salire un piano di scale. Su, Arthur, andiamo. Tornerete? Non troppo presto, non aspettatemi. Quando posso vedervi allora? A pranzo, gli ho risposto, avviandomi alla porta con la piccola Helen tra le braccia e tenendo Arthur per mano. A quel punto si è girato e l'ho sentito mormorare qualche lamentela incomprensibile di cui sono riuscita a cogliere le parole senza cuore. Allora, signor Hargrave, che modi sono questi? Che significa? Gli ho detto fermandomi sull'uscio. Niente, niente, signora Huntington, il punto è che devo proprio confessarvi qualcosa, tanto doloroso per me da pronunciare quanto per voi da ascoltare. Ho bisogno di parlare in privato con voi, in qualsiasi momento e luogo decidiate. Non è per motivi egoistici che ve lo sto chiedendo, né per qualcosa che possa turbare la vostra purezza. Non serve dunque trafiggermi con quello sguardo freddo e spietato. So bene come viene accolto in genere chi porta cattive notizie e... Di cosa si tratta, insomma? L'ho interrotto bruscamente. Se è davvero tanto importante, allora ditemelo in tre parole, prima che me ne vada. In tre parole non posso. Fate portare via i bambini e ve lo dirò. No, meglio che teniate per voi questa cattiva notizia. So già che mi darete un grande dolore. Dite bene, infatti, ma poiché ne sono al corrente, ritengo doveroso informarvene. Farete un favore a entrambi se non mi direte nulla. Vi sollevo dal dovere. Vi siete offerto di parlarmi e io non ho voluto ascoltarvi. Non vi biasimerò per la mia ignoranza. Come volete. Allora non sarà da me che verrete a saperlo, ma se sarà un colpo troppo duro quando arriverà, vi prego di ricordarvi che ho cercato di renderlo meno violento. Poi sono uscita dalla stanza determinata a non farmi agitare troppo dalle sue parole. In fondo cosa poteva dovermi confessare di così importante? Di certo aveva deciso di montare qualche episodio che riguardava la condotta di mio marito per favorire i suoi sfuggenti fini personali. 6 ottobre. Finora Hargrave non ha più accennato a quel grande mistero e non mi sono affatto pentita di non averlo voluto ascoltare. Il colpo annunciato non mi è ancora arrivato, ma non ne ho paura. Ora come ora, sono contenta della condotta di Arthur, che è dignitosa da almeno 2 settimane. A tavola nell'ultima settimana è stato talmente misurato che già si percepisce una netta differenza nell'umore e nell'aspetto. Vorrei sperare che continui così.